Orlando Furioso 500 anni. Cosa vedeva Ariosto quando chiudeva gli occhi? I capolavori dei maestri del Rinascimento al Palazzo dei Diamanti di Ferrara. A grande richiesta, prorogata al 29 gennaio. palazzodiamanti.it. Ad alta voce, Elisabetta Piccolomini legge Jane Eyre di Charlotte Bronte. Traduzione di Monica Pareschi. La notte prima del giorno del mio matrimonio avevo fatto un sogno e lo raccontai a Rochester. Ho fatto un sogno, signore. Ho sognato che Thornfield era una tetra rovina, un rifugio di pipistrelli e di gufi. Avevo l'impressione che della sua imponente facciata non rimanesse altro che la struttura esterna, un muro altissimo e pericolante. Era una notte di luna e io vagavo al suo interno tra le rovine coperte di erbacce. Ogni tanto inciampavo in un caminetto di marmo, ogni tanto nel frammento di un cornicione caduto. A volte in uno scialle avevo in braccio un bambino sconosciuto. Per stanche che fossero le mie braccia, non potevo posarlo da nessuna parte. Anche se il suo peso mi impediva di andare avanti, dovevo tenerlo. Ho sentito in lontananza un cavallo al galoppo sulla strada ed ero sicura che foste voi. Stavate partendo per un paese remoto e sareste rimasto via per molti anni. Allora mi sono arrischiata a salire in fretta e furia sul muro pericolante, ansiosa di avvistarvi dall'alto. Le pietre rotolavano sotto i miei piedi, i rami di edera a cui mi aggrappavo cedevano, il bambino si stringeva terrorizzato al mio collo e quasi mi strangolava, ma alla fine riuscii ad arrivare in cima. Vi ho visto come un punto che si rimpiccioliva sempre più sulla strada bianca. Le raffiche erano così forti che non riuscivo a reggermi in piedi. Quando avete svoltato a una curva della strada, mi sono chinata in avanti per vedervi un'ultima volta. Ma a quel punto il muro si è sgretolato. Io mi sono mossa e il bambino mi è rotolato giù dalle ginocchia. Poi ho perso anch'io l'equilibrio e sono caduta e mi sono svegliata. E a questo punto è tutto finito, Jane. È solo il preambolo, signore. Il racconto deve ancora venire. Svegliandomi, un bagliore mi ha ferito gli occhi. È giorno, ho pensato. Mi sbagliavo. Era solo un lume di candela. Ho immaginato che fosse entrata Sophie. C'era un candelabro sulla toiletta e l'anta dell'armadio in cui avevo riposto l'abito da sposa e il velo prima di mettermi a letto era aperta. Di lì è arrivato un fruscio. «Sophie, che cosa fate?» ho chiesto. Nessuna risposta, ma dall'armadio è uscita una sagoma, ha preso il candelabro e tenendolo alto ha osservato gli abiti appesi nel baule addossato al muro. «Sophie, Sophie!» ho ripetuto gridando. Ancora silenzio. Mi ero messa a sedere sul letto e mi sono chinata in avanti. Dapprima la sorpresa e poi l'incredulità si sono impadronite di me. Infine mi si è gelato il sangue nelle vene. Signor Rochester, non era Sophie, e nemmeno lì, né la signora Fairfax, e non era nemmeno... no. Ne ero certa, e lo sono tuttora. Non era nemmeno quella strana donna, Grace Poole. Doveva per forza essere una di loro. Mi interruppe Rochester. No, signore, vi giuro solennemente che non è così. L'essere che mi stava di fronte non mi era mai capitato sotto gli occhi prima. La statura, le forme erano del tutto nuove per me. Descrivilo, Jane. Sembrava una donna alta e robusta, con folti capelli scuri che le scendevano sulla schiena. Non so cosa avesse addosso, era qualcosa di bianco e dritto, ma se fosse una camicia da notte, un lenzuolo o un sudario, non saprei dirlo. L'hai vista in faccia? All'inizio no, ma dopo un po' ha preso il mio velo. L'ha sollevato contemplandolo a lungo e poi se lo è messo in testa e si è girata verso lo specchio. In quel momento, nella penombra, ho visto abbastanza bene il riflesso del viso e i lineamenti dentro la cornice ovale. E com'era? Terrificante, spettrale ai miei occhi. Signore, non ho mai visto una faccia come quella. Era livida, il volto di una selvaggia. E cosa ha fatto? Signore, si è tolta il velo dall'orrenda testa. L'ha strappato in due pezzi e poi, dopo averli gettati a terra, li ha calpestati. E poi? Ha tirato la tenda della finestra e ha guardato fuori. Forse si è accorta che era quasi l'alba perché ha preso la candela e si è ritirata verso la porta. Quando è stata di fianco al mio letto, però, si è fermata. Mi ha fulminata con quel suo sguardo scellerato. Poi mi ha avvicinato la candela al viso e l'ha spenta sotto i miei occhi, con quella faccia orrenda, così vicina. Ho perso i sensi. Per la seconda volta in vita mia, la seconda soltanto, sono svenuta per il terrore. Chi c'era con te quando hai ripreso conoscenza? Nessuno, signore, a parte la luce del giorno. Mi sono alzata, mi sono bagnata la testa e il viso con l'acqua, ne ho bevuto un gran sorso. Ho sentito che, anche se indebolita, stavo bene e ho deciso che non avrei detto a nessuno della mia visione tranne che a voi. E ora, signore, ditemi, chi era quella donna? La creazione di una mente sovraeccitata, senza dubbio. Signore, credetemi, quell'essere era reale. Il fatto è accaduto davvero. E anche i sogni precedenti erano veri. Thornfield è forse una rovina. Io e te siamo separati da ostacoli insuperabili. Non ancora. Ma come? È appena iniziato il giorno che ci vedrà legati per sempre. E quando saremo uniti, questi terrori immaginari non torneranno, te lo garantisco. Terrori immaginari, signore. Anch'io stamattina, alzandomi, mi sono detta la stessa cosa. E quando mi sono guardata intorno, nella stanza, per farmi coraggio e trovare conforto nella vista degli oggetti familiari alla luce del giorno, ecco che sul tappeto ho scorto ciò che smentiva irrimediabilmente la mia ipotesi: il velo strappato in due da cima a fondo. Vidi Rochester trasalire con un brivido. Subito mi strinse tra le braccia. «Ringrazio Dio!» esclamò. «Che se qualcosa di orribile si è avvicinato a te questa notte, solo il velo sia stato danneggiato. Se penso a quello che poteva succedere!» Ansimava e mi stringeva così forte che quasi non riuscivo a respirare. Dopo qualche minuto di silenzio continuò in tono più lieve. «Ascolta, Janet, ora ti spiegherò tutto. In parte è stato un sogno, in parte realtà. Certo, una donna deve essere entrata nella tua stanza e quella donna era, insomma, deve essere stata Grace Poole. Tu stessa l'hai definita una strana creatura. Nel dormiveglia ti sei accorta che entrava e che cosa faceva. Ma in preda alla febbre e quasi delirante com'eri, le hai attribuito un aspetto spettrale diverso dal suo. I lunghi capelli scarmigliati, la faccia gonfia, nerastra, la statura esagerata, sono creazioni della tua immaginazione, effetti di un sogno. Invece, il velo strappato è reale ed è verosimile trattandosi di lei. Vedo che stai per chiedermi perché mi tengo in casa una donna del genere. Quando saremo sposati da un anno e un giorno te lo dirò. Adesso no. Sei soddisfatta, Jane? Accetti la spiegazione che ti ho dato del mistero? Riflettei e in realtà mi sembrò l'unica plausibile. Non che fossi soddisfatta, ma per compiacerlo mi sforzai di apparirlo e certo mi sentii sollevata. Gli rivolsi dunque un sorriso appagato e a quel punto, visto che l'una era passata da un pezzo, mi disposi a lasciarlo. «Sophie non dorme con Adele nella sua stanza?» chiese lui mentre accendevo la candela. «Sì, signore. Il letto di Adele è grande abbastanza perché possa dormirci anche tu. Stanotte devi condividerlo con lei, Jane. Non c'è da stupirsi se quello che mi hai raccontato ti ha turbata. E preferirei che non dormissi sola. Promettimi di andare nella stanza della bambina. Sarò felice di andarci, signore. E chiudi a chiave la porta. Quando vai al piano di sopra, sveglia Sophie con la scusa di farti chiamare di buon'ora domattina, poiché prima delle 8 dovrai essere vestita e aver fatto colazione. E adesso, bando alle tristezze. Scaccia le preoccupazioni, Janet. Non senti come sia fatto dolce il mormorio del vento? E la pioggia ha smesso di picchiare sui vetri. Guarda. E nel dirlo sollevò la tenda. È una notte bellissima. Era vero. Il cielo era terso per metà e intatto. Le nuvole, ora spinte dal vento che adesso spirava da occidente, avevano preso a migrare verso est in lunghe colonne d'argento. La luna brillava tranquilla. «Come sta adesso la mia Janet?» disse Rochester guardandomi negli occhi con aria interrogativa. «La notte è serena, signore, e lo sono anch'io. E stanotte non sognerai di separazioni e affanni, ma solo di amore felice e di beatitudine in due». Non c'erano né Paggi, né damigelle, né parenti ad accompagnarci. Eravamo solo io e Rochester. La signora Fairfax era ferma nell'atrio quando passammo e io le avrei rivolto volentieri la parola, ma una morsa d'acciaio mi stringeva la mano e venni trascinata via a una velocità che riuscivo a sostenere a stento. E mi bastò guardare in faccia Rochester per capire che per nessun motivo avrebbe tollerato un secondo di ritardo. Mi domando se si sia mai visto un futuro sposo con quell'espressione, così tesa verso il suo scopo, così trucemente determinata. Non so se il tempo fosse bello o brutto. Percorrendo il viale, non guardavo né in cielo né a terra. Il mio cuore era con i miei occhi, ed entrambe sembravano completamente assorbiti dalla persona di Rochester. Entrammo nella cappella silenziosa e austera. Il pastore aveva indossato la cotta bianca e ci attendeva presso il modesto altare. Prendemmo posto ai suoi piedi. Sentendo un passo furtivo alle mie spalle, mi girai a guardare. Uno sconosciuto, chiaramente una persona di un certo livello sociale, si stava avvicinando dal fondo della chiesa. La funzione ebbe inizio. Dopo aver spiegato quali fossero gli scopi del matrimonio, il pastore fece un passo avanti e, chinandosi leggermente verso Rochester, proseguì: «Io vi chiedo sotto la vostra responsabilità che se l'uno o l'altro di voi è a conoscenza di qualsiasi impedimento per il quale non possiate essere legalmente uniti in matrimonio, lo confessi ora, poiché state ben certi che coloro i quali si uniscono in maniera diversa da quella voluta dalla parola di Dio non sono uniti davanti a Lui e il loro vincolo non è valido davanti alla legge». E qui, secondo l'uso, si interruppe per un attimo. Quando mai il silenzio che segue queste parole viene rotto da una risposta? Nemmeno una volta ogni 100 anni, forse. E il ministro, che non aveva alzato gli occhi dal suo libro e aveva trattenuto il fiato solo per un istante, stava per continuare. La mano si era già tesa verso Rochester e le labbra si erano schiuse per chiedere: «Vuoi tu prendere in moglie questa donna per tutta la vita?» Quando una voce, distinta e vicina, disse: «Il matrimonio non può essere celebrato, dichiaro che esiste un impedimento». Il ministro alzò gli occhi verso colui che aveva pronunciato quelle parole e ammutolì. Rochester vacillò un poco, come per una scossa di terremoto, poi riprese e disse: «Continuate». Quando ebbe pronunciato quella parola in tono basso e profondo, calò un silenzio di tomba. Poco dopo, il pastore disse: «Non posso continuare senza aver indagato sull'affermazione che è stata fatta e avere accertato se è vera o falsa». «La cerimonia è interrotta», aggiunse una voce alle nostre spalle. «Sono in grado di dimostrare ciò che ho affermato. Esiste un insuperabile impedimento a questo matrimonio». Rochester, pur avendo sentito, non vi badò. Rimase lì, ostinato, granitico, e l'unico movimento che fece fu quello di prendermi la mano, che stretta, calda e forte. E come sembrava scolpita nel marmo in quel momento la sua fronte pallida, ferma, massiccia. Come gli brillavano gli occhi, ancora circospetti, ma sotto furibondi. Il pastore non sapeva che pesci pigliare. «Qual è la natura dell'impedimento?» chiese. «Forse è possibile superarlo, magari chiarendolo». «È molto difficile», fu la risposta. Colui che aveva pronunciato queste parole si fece avanti appoggiandosi alla balaustra che lo separava dall'altare. Continuò scandendo le parole, calmo, sicuro, ma senza alzare la voce. «Consiste semplicemente nell'esistenza di un precedente matrimonio. Il signor Rochester è già sposato e sua moglie è viva». A queste parole i miei nervi vibrarono come neppure il tuono era stato in grado di farli vibrare, e il mio sangue sentì la loro sottile violenza come mai aveva sentito il gelo o il fuoco. Tuttavia mi controllai e non rischiai di perdere i sensi. Guardai Rochester e lo costrinsi a guardarmi. Aveva la faccia impietrita, incolore. Gli occhi sprigionavano scintille. Non negò nulla. Sembrava pronto a sfidare qualunque cosa. Senza parlare, senza sorridere, forse senza neppure riconoscere in me un essere umano, si limitò a cingermi la vita con un braccio inchiodandomi al suo fianco. «Chi siete?» domandò all'intruso. «Mi chiamo Briggs, procuratore a Londra, e vorreste affibbiarmi una moglie. Vorrei ricordarvi l'esistenza della signora Rochester, signore, che la legge, se non voi, riconosce. Favorite dunque dei particolari al suo riguardo, nome, origine, luogo di residenza». «Certo». Il signor Briggs si tolse con calma un foglio di tasca e lo lesse in tono piuttosto solenne e con voce nasale. «Affermo, e sono in grado di dimostrare, che il 20 ottobre dell'anno, una data di 15 anni prima, Edward Rochester di Thornfield sposò mia sorella, Berta Antonietta Mason, figlia di Jonas Mason, mercante, e di Antonietta Mason, sua moglie creola, nella chiesa di Spanish Town in Giamaica. L'atto di matrimonio si trova nel registro di questa chiesa e una copia di esso è attualmente in mio possesso. Firmato Richard Mason». «Questo documento, seppure è valido, può dimostrare che mi sono sposato, ma non dimostra affatto che la donna menzionata come mia moglie sia ancora viva». «Fino a 3 mesi fa lo era», rispose l'avvocato. «Come fate a saperlo?» «Ho un testimone, e neppure voi, signore, potete smentire ciò che afferma. Portatelo qui oppure andate all'inferno». «Lo porterò subito, perché si trova qui con noi». «Signor Mason, abbiate la bontà di venire avanti». Nell'udire quel nome Rochester digrignò i denti. Fu addirittura scosso da una specie di tremito convulso. Il secondo sconosciuto, che fino a quel momento era rimasto in disparte, si avvicinò. Una faccia pallida spuntò sopra la spalla del procuratore. Sì, era Mason, in persona. Rochester si girò fulminandolo con lo sguardo e muovendosi sollevò il braccio possente e avrebbe potuto colpire Mason, gettarlo sul pavimento della chiesa, mozzargli il fiato colpendolo senza pietà, ma Mason si ritrasse pigolando «Buon Dio!». Allora un disprezzo gelido si impossessò di Rochester. La sua furia si sgonfiò all'istante e chiese soltanto «Che cosa hai da dire, tu?». Dalle labbra esangui di Mason uscì una risposta impercettibile. «È il diavolo che ti fa parlare se non riesci nemmeno a farti capire. Te lo chiedo di nuovo. Che cos'hai da dire tu?». «Non dimenticate che siete in un luogo sacro», lo interruppe il pastore. Poi, rivolgendosi a Mason, gli chiese con i dovuti modi: «Siete dunque al corrente, signore, se la moglie di quest'uomo sia viva o no?». «Si trova a Thornfield», disse Mason in tono più intelligibile. «L'ho vista l'aprile scorso. Sono suo fratello». «Impossibile!» esclamò l'ecclesiastico. «Abito da molto tempo in questa zona, signore, e non ho mai saputo che ci fosse una signora Rochester a Thornfield». Vidi Rochester storcere le labbra in un sorriso sinistro mentre mormorava: «No, per Dio! Ho fatto di tutto perché nessuno ne avesse notizia e soprattutto che non la conoscessero sotto quel nome». Poi si mise a riflettere. Per 10 minuti si raccolse in se stesso. Dopodiché si decise e annunciò: «Basta! Ora verrà fuori tutto di botto come una palla di cannone. Pastore, chiudete il libro e toglietevi la cotta. Andate pure. Non ci sarà nessun matrimonio oggi. E ora seguitemi. Vi invito tutti a casa mia a trovare la paziente di Grace Poole, ovvero mia moglie». Sempre tenendomi stretta a sé, uscì dalla chiesa con gli altri 3 al seguito. Senza fermarsi salì le scale, sempre tenendomi per mano e sempre facendo cenno agli altri di seguirlo. Salimmo la prima rampa, percorremmo tutto il ballatoio e continuammo fino al terzo piano. La porticina nera che Rochester aprì con la sua chiave personale ci introdusse nella stanza tappezzata, col suo grande letto e l'armadio istoriato. «Buongiorno, signora Poole», disse Rochester. «Come state? Come sta oggi la paziente?» «Non c'è male, grazie, signore», rispose Grace, togliendo con precauzione la pappa bollente dal fuoco. «Un po' irritabile, ma non troppo rabbiosa». Un grido selvaggio parve smentire quel resoconto positivo. La iena vestita si drizzò in tutta la sua altezza e rimase in equilibrio sugli arti posteriori. «Signore, vi ha visto!» esclamò Grace. «È meglio che ve ne andiate!» «Attento!» urlò Grace. I 3 uomini si ritrassero contemporaneamente. Rochester mi diede uno spintone e si mise davanti a me, mentre la pazza gli saltava addosso prendendolo rabbiosamente per il collo e cercando di mordergli una guancia. Lottarono per un po'. Lei era una donna grande, grossa, alta, quasi quanto il marito e oltretutto corpulenta. Nello scontro mostrò una forza virile e più di una volta fu sul punto di strangolarlo, nonostante la corporatura atletica dell'avversario. Lui avrebbe potuto metterla fuori combattimento con un colpo ben assestato, ma non lo fece, limitandosi ad affrontarla. Quando riuscì ad afferrarla per le braccia, Grace Poole gli diede una corda e lui gliela legò dietro la schiena, dopodiché la legò a una sedia con un'altra fune. Tutto questo si svolse tra urla feroci, balzi, movimenti convulsi. Alla fine Rochester si rivolse agli spettatori guardandoli con un sorriso amaro e sconsolato a un tempo. «Questa è mia moglie», disse. «Questo è l'unico abbraccio coniugale che mi è concesso. Queste le tenerezze destinate ad allietare le mie ore di riposo. E questo, ciò che desideravo», mettendomi una mano sulla spalla. «Questa ragazza che rimane così, seria e tranquilla sulla bocca dell'inferno, osservando senza battere ciglio i sussulti di un demonio. Volevo solo nutrirmi di qualcosa di diverso dopo questo cibo infernale». Guardate che differenza. Confrontate questi occhi limpidi con quei globi rutilanti laggiù, questo viso con quella maschera, questa figura con quell'ammasso. E poi giudicatemi voi e ricordatevi che come avete giudicato sarete giudicati. E ora uscite. Devo chiudere a chiave il mio tesoro. Jane Eyre, che aveva atteso con tanta ansia il giorno del suo matrimonio, era tornata a essere la solita ragazza fredda e solitaria di sempre. La sua vita era scialba, il suo avvenire fosco. Elisabetta Piccolomini ha letto Jane Eyre di Charlotte Bronte, traduzione di Monica Pareschi. A cura di Anna Antonelli, Lorenzo Pavolini, Chiara Valerio. Per scaricare e riascoltare il programma, radio3.rai.it.